Europa 24. Eccoci qua, buongiorno anche da Gigi Donelli. Dunque il PNR, l'accordo sembra infine raggiunto, anche se in realtà non conosciamo ancora i contenuti. Quindi direttiva del PNR significa in sostanza scambio di informazione, appunto, su un codice e la sua tracciabilità. Come probabilmente ricorderete, il tema era letteralmente, come dire, aveva dilagato per la sua sensitività quando ci fu l'attacco a Charlie Hebdo, dunque nel gennaio di quest'anno. In quel caso c'era stato un gran parlare di PNR, poi la cosa è stata in qualche modo messa da parte sulla base di una preoccupazione da parte del Parlamento europeo che appunto lo scambio e la conservazione dei dati sui nostri movimenti, perché poi parliamo di cittadini europei non all'interno dello spazio dei 28, potesse essere una violazione, lo fosse per molto, una violazione appunto delle libertà individuali. Ora l'attacco del 13 novembre scorso a Parigi ha in qualche modo rimesso in moto questa macchina e dunque l'accordo di oggi, comunicato via Twitter già circa un'ora fa dal ministro degli interni Angelino Alfano in una pausa di lavori del Consiglio Interni, che appunto a livello di Unione Europea è responsabile per la definizione delle nuove misure sulla sicurezza. Tutto questo mentre dall'altra parte, o meglio in un'altra parte d'Europa, ancora una volta ieri il voto popolare per condividere alcuni meccanismi di informazione e dunque fornire dalle capitali nazionali al centro è stato respinto. È accaduto in Danimarca, sentiamo cosa è accaduto esattamente nel servizio. No. Neppure gli attentati di Parigi hanno riavvicinato la Danimarca all'Europa, sottolineando una volta di più lo stato di crisi e di sfiducia in cui versa oggi il disegno di integrazione comunitario. Gli elettori danesi hanno bocciato con una maggioranza risicata la consultazione referendaria nella quale si chiedeva loro il via libera per entrare nello spazio di cooperazione comunitaria in materia di sicurezza e polizia. In termini più concreti, Copenaghen avrebbe partecipato in modo attivo alla legislazione europea nel settore della giustizia internazionale, lotta al crimine informatico, traffico di esseri umani o pedofilia, solo per fare qualche esempio. Il governo, che con i maggiori partiti di opposizione aveva chiesto agli elettori di votare sì, aveva paventato il rischio di un'uscita della Danimarca da Europol, garantendo che il paese avrebbe comunque mantenuto la piena autonomia sulle politiche legate ad asilo e immigrazione. Nulla da fare, tutto è stato vano. Al contrario, la battaglia del no ha rinfocolato il fronte dei partiti xenofobi ed euroscettici, che hanno portato a casa un'altra pesante vittoria. Copenaghen rifila dunque un altro rifiuto alle Europa dopo quello di 15 anni fa sull'introduzione dell'euro, rifiuto quello del referendum di ieri che suona persino paradossale, tenuto conto che a volere questa consultazione era stata l'ex premier Thorning Schmidt dopo l'attacco terrorista dello scorso febbraio a Copenaghen, nel corso del quale 3 persone erano rimaste uccise. Dobbiamo far parte di una maggiore cooperazione europea a livello di polizia, disse allora la premier. Tuttavia la barca europea nel frattempo di acqua ne è imbarcata, sotto i colpi della crisi greca, di quella migratoria e da ultima di quella legata all'allarme terroristico, allontanando ulteriormente i danesi già tiepidissimi europeisti da Bruxelles. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E tutto questo nulla toglie però l'accordo raggiunto dunque oggi sul PNR. Il fatto che appunto i dettagli saranno formalizzati definitivamente il 15 di dicembre e che sostanzialmente si prevede che i dati sui passeggeri aerei siano accessibili per 5 anni. Ancora giornate di trattative intense invece a COP21 e a Parigi. Naturalmente, per facilitare le trattative della conferenza ONU sul clima, sono state pubblicate stamattina 2 bozze del testo d'accordo, una che contiene tutte le opzioni aperte, diciamo, e una ripulita con l'inserimento di proposte ponte lanciate dai paesi per cercare di raggiungere un compromesso, una proposta stilata da quelli che vengono chiamati i facilitatori. La prossima settimana vedrà dunque la COP21 entrare nel vivo. Vi ricordo che la grande, appunto, kermesse ambientale così delicata sarà conclusa al termine della prossima settimana. Insomma, l'aspettativa è di raggiungere un accordo di questo tema e qui concludo. Parleremo domani mattina nel corso dell'Euro Reportage, dunque ci sarà un secondo spazio dedicato ai passi compiuti e alle aspettative ora che si rafforzano per un accordo dunque per la prossima settimana. E allora per l'Europa è tutto, un saluto da parte mia, l'appuntamento naturalmente all'inizio della prossima settimana. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.